a.k.a. eclettica. Diciamo no all'omofobia. Fat cap family. Che male c'è se ad un uomo piace un altro uomo? La vita è un dono, ognuno ha il diritto di cogliere ogni attimo buono. Che male c'è se ad una donna piace un'altra donna? Se c'è amore non c'è motivo di vergogna. Qui l'omofobo è la vera rogna. Un mondo dove tutti rispettano una sessualità diversa. E ciò che la mia anima persa in vano sogna. Ancora oggi sento di ragazzi pestati perché omosessuali. Ma io vi assicuro che l'ignoranza è il peggiore dei mali. Continuo a sognare un mondo dove siamo tutti uguali. Dove i gusti sessuali sono solo affari personali. Invece di schifarsi pensando a due gay che fottono, pensiamo a tutto ciò che ci fottono i parlamentari. Ogni fottuto giorno dal portafoglio nostro. Io per i gay nutro un orgoglio che non appari. Qui il diverso è ciò che non rientra nei canoni sociali. Che male c'è se a qualcuno piace qualcuno dello stesso sesso. Se c'è amore il caso ha lo stesso senso. Frantumo ogni barriera mentale ma fallo adesso. Impariamo ad accettare il mondo gay e lesbo. Diciamo no all'omofobia perché l'omosessualità non è una brutta malattia. Diciamo no all'omofobia perché l'omosessualità non è una brutta malattia. Non è una brutta malattia da disprezzare l'uomo che usa violenza su una donna. A chi agli animali fa male, a chi non sa rispettare. A loro darei la pena di morte per asciugare lacrime amare e ridare speranza a chi sogna. Non è che se usi la violenza sei forte. La vera forza è un'apertura mentale che va oltre. E non pretendo di cambiare il mondo, ma di riuscire a cambiare la sorte di ogni singolo uomo che soffre. Parlo di creature bellissime, sensibili oltre misura, che hanno conosciuto sofferenza e paura. Di chi non li accetta per la loro natura, eppure la loro anima è pura quanto quella degli altri. Trattarli come malati, pensare che siano anormali è uno dei tanti sbagli. E mi rivolgo ai genitori, se gay sono i vostri figli, non imparate ad accettarli quando è troppo tardi. E se lo tengono nascosto è perché hanno paura di non essere accettati sotto i vostri squadri. Che male c'è se a qualcuno piace qualcuno dello stesso sesso. Se c'è amore il caso ha lo stesso senso. Frantumo ogni barriera mentale ma fallo adesso. Impariamo ad accettare il mondo gay e lesbo. Diciamo no all'omofobia perché l'omosessuale non è una brutta malattia. Diciamo no all'omofobia perché l'omosessualità non è una brutta malattia. Non è una brutta malattia. Ed io penso ad ogni trans che soffre perché ha l'anima in un corpo sbagliato e di prese in giro ne ha avute troppe. Qui è la vita che ti fotte. In questa società se sei gay è un buon motivo per pestarti di botte. E per non perdere il lavoro devi tenerlo nascosto. Sogno un universo dove ognuno possa essere se stesso in qualunque posto. Sogno un universo dove ognuno possa essere se stesso a qualunque costo. Sogno un universo differente dove non esiste il diverso. E se ami uomo o donna è indifferente. Perché il sesso non è l'unica cosa che conta. Il senso è che così la vita sarebbe molto meno stronza. Con ogni mio verso vorrei infondere forza. Perché la vita in fondo non è altro che una corsa. E se non scappi in tempo ti stringe in una morsa con una sola morsa. Che male c'è se a qualcuno piace qualcuno dello stesso sesso. Se c'è amore il caso ha lo stesso senso. Frantumo ogni barriera mentale ma fallo adesso. Impariamo ad accettare il mondo gay e lesbo. Diciamo no all'omofobia perché l'omosessualità non è una brutta malattia. Diciamo no all'omofobia perché l'omosessualità non è una brutta malattia. Non è una brutta malattia. E questa va a chi non accetta una sessualità diversa dalla propria. Impariamo a rispettare qualsiasi forma d'amore. Che tu sia etero, gay, lesbica, bisessuale. L'amore vince su ogni cosa. Come si è formato? RSS on the Moon, volume 2.